Lettere a Radio 24, a cura del direttore, con la collaborazione di Luca Cremonese. Con l'atto di violenza fisica subito da Silvio Berlusconi si è raggiunto il punto di non ritorno. La politica in Italia è diventata scontro tra persone, non tra idee. Gli avversari sono diventati nemici. La convivenza civile, quindi la democrazia, è in pericolo. Un pericolo che non deriva né da Berlusconi né dai suoi avversari politici, ma dalla violenza verbale e ora anche fisica che si è impossessata della politica nel bel paese. Da Tangentopoli in poi, gradualmente, il rispetto per le opinioni altrui è venuto a mancare. Vi ha preso il posto un dibattito cencioso e fuori le righe, che stimola menti deboli come l'uomo che ha colpito Berlusconi. Persone che si sentono legittimate a colpire un avversario politico solo perché non è della loro stessa idea. Di ciò vanno ritenuti colpevoli tutti, politici, di sinistra quanto di destra, giornalisti, commentatori. Lo stesso attuale presidente del Consiglio, Berlusconi, non dovrebbe far altro che piangere il proprio male. Dal 1994 non ha fatto altro che fomentare un odio personale contro i suoi avversari. Non parliamo poi del centro-sinistra, di Di Pietro e dei Grillini and Company che hanno accusato Berlusconi di ogni colpa possibile, anche le più assurde. E non come avversario politico, ma come nemico della democrazia. Ora siamo al punto di non ritorno. Ora occorre riportare su toni ragionevoli e rispettosi per le persone il dibattito politico. Il pericolo deriva dallo scollamento tra l'opinione pubblica e le istituzioni. Bisognerebbe formare un governo istituzionale o una commissione bicamerale in grado di realizzare nel più breve tempo possibile riforme istituzionali, liberalizzazioni economiche, abolendo corporazioni e riformando gli albi professionali. Massimiliano. Ho 64 anni, non sono mai stata una bombarola, non ho fatto il 68. Ho votato a sinistra quando ormai il comunismo era caduto e la sinistra avrebbe potuto diventare una forza democratica se non ci fossero state le aberrazioni della Russia sovietica. Questo per dire che non sono un estremista, non amo Berlusconi, non accetto il suo modo di essere e come si esprime nei confronti della magistratura e di tutti gli alti poteri dello Stato. Forse non sarà mafioso, ma dovrebbe spiegare tante cose che i magistrati cercano faticosamente di chiarire. Spero solo che il gesto, certamente condannabile, di quello squilibrato, non offra il fianco ad una santificazione di Berlusconi, con relativa condanna di qualunque contestazione al suo agire. L'informazione deve continuare a informare, possibilmente non con una sola voce. Dire che è colpa di una certa informazione aver fomentato un clima di odio nel panorama politico è come dire che è colpa di Saviano se c'è la camorra. Provocatore Berlusconi lo è sicuramente, così come sicuramente non è persona di specchiata integrità morale. È vero che è stato votato da tanti italiani, purtroppo, dico io, ma questo non lo autorizza a considerarsi il padrone dello Stato e nemmeno l'unico deputato a decidere qualsiasi cosa. Se persino Fini lo dice, c'è da riflettere. Infine, mi viene spontanea una domanda. Perché non riusciamo ad essere un paese normale, con una normale contrapposizione politica e un sistema economico-sociale sano, almeno come nelle altre democrazie europee, che certamente non saranno il paradiso, ma mi pare si comportino in modo più vicino all'idea di democrazia? Donata. Vorrei che qualcuno facesse notare a Di Pietro che, come al solito, è troppo affannato a cercare spazi per attaccare Berlusconi, al punto tale che non si accorge delle magre figure che rimedia. È inutile che ci ricordi che gli italiani sono arrabbiati e depressi per colpa di Berlusconi e del suo governo, e che di conseguenza Berlusconi deve stare attento ai disperati violenti che lui stesso ha generato. Con queste premesse, Di Pietro dà modo agli altri politici di fare la parte dei diplomatici, dissociandosi dalle sue parole e mostrando cordoglio, anche se, secondo me, la maggior parte dell'opposizione si sarà fatta quattro risate sotto i baffi, vedendo e rivedendo quei replay che occupano interi palinsesti dei media. Ma il messaggio più importante è per la classe politica stessa. Tutti i partiti hanno esponenti che hanno dato esempi violenti. Ogni tanto vediamo risse in Parlamento. Sembrano tanti cani all'osso che ringhiano tutto il tempo e a volte si tirano un morso. Questo costante esempio è la prima giustificazione per chi impara a usare il loro linguaggio. Giuseppe. Condanno totalmente il gesto criminale contro il premier Berlusconi, come condanno totalmente le dichiarazioni di ieri e dell'altro ieri e di sempre dell'ex PM Antonio Di Pietro. Questi ha contribuito in maniera preponderante al clima di scontro e delegittimazione di un governo che ben governa e che, nonostante gli attacchi quotidiani, i distinguo, le calunnie, i voltafaccia e le dichiarazioni irresponsabili di molti politici avversari e nemici giurati, fa camminare il paese verso il progresso e la modernizzazione. Michele. È proprio vero. Di Pietro lo ascoltano solo i matti. Alessandro. E così è scoppiato l'odioso odio della sinistra che semina e produce questi bei frutti. E mentre non stupisce il commento dell'ex magistrato Di Pietro, quello che mi lascia decisamente esterrefatto è quello della Rosi Bindi, che della Democristiana ha perso decisamente il Cristiana, rimanendo tristemente fuori dai dettami del cristianesimo tollerante e senza odio per nessuno. Mi convinco quindi sempre più che un buon cristiano non dovrebbe entrare in politica, perché troppo esposto alle storture ideologiche di contrapposizione fra avversari politici che mandano all'aria qualsiasi buona intenzione iniziale. E Rosi, suddetta Bindi, ne è un esempio eclatante. Ovviamente era anche scontato il vezzo di inneggiare all'attentatore come al vendicatore del popolo su Facebook dei soliti internet squadristi di sinistra, che mi sembrano assai simili a quelli che vogliono eliminare il dissenso nell'odierno Iran governato da una feroce dittatura religiosa. Fabio. Sono un'elettrice del Popolo della Libertà e domenica sera mi trovavo in Piazza Duomo. È anche troppo facile esprimere lo sconcerto provato per il gravissimo attentato compiuto nei confronti del nostro Presidente del Consiglio. È stata un'azione vile e non vengano a dire che è stata compiuta dal solito fuori di testa. Era programmata e fomentata da certa sinistra priva di idee, che non trova alternativa valida da esprimere e usa fomentare odio e invidia al solo miserabile scopo di raccogliere qualche voto. Sconvolgente è ciò che si legge su Facebook, ma perché non oscurano il sito? Al di là di come la si può pensare, e ognuno è libero di farlo come crede, è vile e strumentale fomentare violenza su chi che sia, e il signor Di Pietro dovrebbe saperlo. Non sono giovane, e purtroppo ricordo con raccapriccio ciò che è successo negli anni 70. Non abbiamo proprio imparato nulla? Lucia, Milano. Sono preoccupato. Ma sono sicuri di quello che fanno quelli che usano la leva dell'odio per abbattere un governo democraticamente eletto? Si rendono conto a cosa rischiano di andare incontro? Ci siamo forse fatti mancare qualche violenta contrapposizione negli anni passati, per meritarcene oggi un'altra? Continuano a raccontarci che combattono per noi in nome della democrazia. Io sarò stupido, o vogliono farmi sentire tale, ma la democrazia per me è solo quella che si esprime col voto. Il resto sono solo chiacchiere di quelli che dalla democrazia sono stati posti in minoranza. Piaccia o non piaccia, bisogna avere la forza di accettarlo. Non c'è nessuno da fermare, non c'è nessuno che minaccia le istituzioni. Non c'è alcun pericolo. Ci saranno nuove elezioni che stabiliranno chi governerà. Il rischio di creare un fronte comune contro Berlusconi è che si alimenti in automatico la formazione di un fronte contrapposto a favore di Berlusconi. Luca. Caro direttore, ogni atto di violenza è di per sé da condannare. La violenza non può essere la prosecuzione della politica con altri mezzi. E ha ragione Mario Calabresi nel suo articolo di fondo sulla Stampa, quando afferma che non bisogna aggiungere nulla alla condanna degli atti di violenza. Eppure, anche voi a Radio 24 avete raccolto commenti di diverso parere. Perché non fermarsi alla condanna senza prendere spunto per contrastanti considerazioni politiche? Angelo. Caro Angelo, anch'io condivido fino in fondo queste parole di grande saggezza. Ci sono momenti, ha scritto Calabresi, in cui bisognerebbe abolire due parole, ma e però. L'aggressione di un uomo, in questo caso di un primo ministro, è uno di quelli. Di fronte alla violenza non possono essere accettate subordinate, ammiccamenti e tantomeno giustificazioni. Il giorno che la politica italiana tutta lo avrà compreso fino in fondo, allora sarà davvero matura. Queste le parole del direttore della Stampa che io perfettamente condivido. Senza usare ma e però, bisogna dire che in Italia siamo lontanissimi da una situazione in cui possa essere legittimo pensare ad atti violenti per abbattere una tirannia. Il confronto democratico resta libero e aperto, l'opposizione garantita e tutelata e ha la più ampia possibilità di esprimersi, con una libertà certamente consolidata. commentare un evento come l'aggressione a Berlusconi diventa allora andare alla ricerca dei perché, cercare di capire come mai qualcuno possa sentirsi legittimato a compiere gesti di questo tipo. Perché è indubbio che il gesto può essere nato in una mente malata, ma ha trovato terreno fertile nel clima di scontro e di pesantissime critiche personali. Basta guardare la copertina di uno dei più diffusi settimanali di attualità, l'Espresso, della scorsa settimana, con la foto di Berlusconi e un timbro con la scritta «Scaduto». Un giudizio politico, certamente, e la stampa deve essere libera di poter esprimere giudizi politici e anche personali. Ma quella copertina, il giorno dopo, lascia l'amaro in bocca. Ho letto che quelli dell'associazione ciclistica Ciclobbi sabato scorso per protesta sono passati per il tunnel di Porta Nuova a Milano, vietato alle biciclette. I centri sociali, sempre per protesta, fanno manifestazioni violente e occupano edifici altrui. I collettivi studenteschi, per protesta, occupano le scuole e fanno autogestioni. Gli operai dell'Alfa, alias centri sociali travestiti da operai, occupano l'autostrada dei Laghi e la statale Varesina, anche loro per protesta. All'Università Statale, per protesta, i No Global aggrediscono i ragazzi di Comunione e Liberazione. Poi ci sono i graffittari che imbrattano i muri altrui, per protesta. E così via. Tutti quanti, per protesta, potrebbero accampare il diritto a fare i banditi. Anch'io, per protesta, vorrei mettere l'auto in divieto di sosta o circolare con veicoli inquinanti. Protesto contro la lobby degli ecologisti fanatici che stanno distruggendo il mondo molto più del global warming. Questo atteggiamento, che oggi è molto diffuso, ci sta portando verso una nuova guerra civile. Ha un nome preciso. Significa distruggere la società e sostituirla con un sistema anarchico, senza leggi, in cui tutti possono fare quello che vogliono. Ho telefonato a quelli di Ciclobbi. Ho detto loro che chi viola la legge, per me, è soltanto un bandito. Mi hanno risposto che si viola la legge per instaurare una legalità superiore. Perfetto. Allora ognuno faccia quello che gli pare e violi ogni legge. Infatti ogni legge è perfettibile e quindi passibile di essere superata da leggi migliori. Insomma, basta con la logica della protesta che darebbe il diritto a fare quello che si vuole e distruggere le regole del vivere civile. È solo la logica dei tiranni. Invitiamo le autorità a non farsi abbindolare da questi prepotenti e punire severamente chi cerca di instaurare questo clima di inciviltà. Clemente. L'Italia importa quasi l'80% dell'energia elettrica di cui necessita. Vuol dire che ogni volta che accendiamo la luce o utilizziamo un qualsiasi apparecchio elettrico, stiamo usufruendo di energia che deriva per la maggior parte da centrali nucleari. Non ha perciò senso dire «non voglio le centrali», ma non ho problemi ad utilizzare l'energia derivante da esse. Perché i rischi sono gli stessi che avremmo se le centrali le avessimo in casa nostra, visto che i siti si trovano a poca distanza da noi. Paghiamo l'energia nucleare molto cara e poi non salvaguardiamo l'ambiente, poiché le scorie vengono prodotte comunque in Francia, Svizzera, eccetera. Penso che una vera contestazione potrebbe essere quella di accettare le centrali nucleari, chiedendo però che una buona parte del risparmio derivante dal loro utilizzo venga utilizzato per sovvenzionare l'acquisto di pannelli fotovoltaici o per la creazione di centrali a energia pulita. Forse così in qualche decennio potremo produrre qualche punto percentuale di energia pulita. Marco. Passare al nucleare significa che le scorie finiranno al sud e l'acqua e il cibo inquinato andranno al nord. Se dire questo significa passare per catastrofisti, allora diciamo che l'Italia è un paese fragile, soggetto a terremoti che radono al suolo città costruite modernamente, alluvioni che buttano giù interi paesi e dove le città del nord devono mandare le scorie all'estero. Insomma, ci saranno pure dei geni che si occupano delle scorie, ma la situazione ambientale ci sfavorisce. Anche chi ha fatto la diga del Vajont diceva che era sicura e che portava benefici. Cesare. Queste erano alcune delle lettere selezionate tra quelle che ci avete inviato all'indirizzo lettere@radio24.it. Continuate a scriverci.